position of the observer is maintained by nominating pain, or is one way. Is one way. Mm. What I have difficulty understanding is how, if you nominate in a certain sense to maintain your position of observer and so keep the thing at a certain distance, that is not get involved with it, how at the same time you're able to investigate the thing. Very good question. Translate. Mi dubbio era questo. Se la posizione dell'osservatore manteniamo questa posizione più in un certo modo attraverso il nominare dolore o rabbia o eccitazione, e facciamo questo per tenere una certa distanza tra l'osservatore e quella sensazione, quell'esperienza, come possiamo allo stesso tempo investigare quella sensazione se facciamo così per tenere la distanza o mantenere la distanza? That position is your first position. Quindi quella posizione è la prima posizione. That's the point where you recognize that you are stable. Quindi quello è il punto quando tu riconosci di essere stabile. Mm. Then you must enter into the experience. Poi occorre entrare nell'esperienza. Mm. It is a fact that by noting you are keeping things away. There's a possibility of keeping things away. È vero che con la notazione c'è questa possibilità che si sta tenendo l'oggetto a distanza. And this becomes a subtle suppression. E questa diventa una sottile repressione. Yeah. Soppressione. Yeah. This is not only done by noting. It's a mistake that any meditator can make in any of the Vipassana techniques. Quindi questo non è solo un problema che può sorgere con la nota mentale, ma questo è un errore in cui può cadere il meditante seguendo qualsiasi tecnica di Vipassana. And I think that this comes about mainly when people put too much stress on impermanence and not self. E io credo che questo accada quando le persone danno troppa importanza all'impermanenza e a non sé. Yeah, because when you say not me, when you have that feeling of not me, not mine, it's already distance. E quando uno ha questa sensazione del non io, non mio, e allora già uno prende le distanze. Mm. But we must be interested in the dukkha. Ma noi dobbiamo essere interessati all'aspetto di dukkha, di yeah, sofferenza, which is felt, a felt sense. Che è una cosa sentita, percepita. Mm. So that position of the observer looking at is your first position. Quindi questa posizione dell'osservatore che guarda, allora questa è la prima posizione. Once that stabilized you, in the words of Sai Rupandita, plunge into the object. Poi una volta che è ben stabilizzata, allora utilizzando le parole di Venerabile Upandita, ti tuffi dentro l'oggetto. And in the Buddha's language, there is this. I've mentioned it. This way of expressing it, to feel feelings in feelings. E invece nelle parole del Buddha c'è questo modo per esprimerlo, e cioè sentire le sensazioni nelle sensazioni. To feel or to experience mental states in mental states. Sentire gli stati mentali negli stati mentali. Yeah. So be careful. Attenzione. Very good. So if we do a little walking meditation and then we'll follow the schedule. Quindi facciamo un po' di meditazione camminata e seguiamo l'orario.